sé yo. Y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi è la tipica puntata di Melog di fronte alla quale molti spegneranno la radio, altri diranno ma cos'è questa cosa, altri cercheranno di fare di tutto per non capire. Tenterò ugualmente di esporvi la mia scoperta. Una volta io feci una trasmissione sul tango, venne una bellissima trasmissione, scoprii che le persone amavano ritrovarsi fisicamente ballando, avvinti e presi dal ritmo della musica, uomini e donne che mai nella vita avrebbero pensato prima di ballare, si trovavano in milongas favolose in tutti gli angoli di tutte le città d'Italia. Un'altra volta feci una trasmissione sulla voglia di volare. Mi resi conto che un'infinità di ascoltatori e ascoltatrici avevano sognato quello che io spesso sognavo, quello di volare. E tutti mi chiamarono descrivendomi quelle che erano le tecniche oniriche di volo. Sembrava una follia, però fu una trasmissione a cui telefonarono tantissime persone. La replicammo, tanto la gente voleva risentire la trasmissione del sogno di volare. Un'altra volta feci una trasmissione sulle pulizie di casa. Fantastica trasmissione in cui capimmo che c'erano una serie di orpelli, di sovrappesi, di cose inutili nelle nostre case, che una volta tolte noi saremmo tutti più leggeri, tanto che feci un'altra trasmissione sulla leggerezza. Improvvisamente ci rendemmo tutti conto che il valore della leggerezza è un valore assoluto, è un valore non sufficientemente valutato. Oggi si valuta la ricchezza, oggi si valuta la bellezza, oggi si valuta il potere d'acquisto, ma la leggerezza è un grandissimo valore, è un grandissimo privilegio. Regalare leggerezza a una persona a cui si vuol bene è il regalo più grande che si può fare. L'amicizia, connotata alla leggerezza, è la più profonda forma di amicizia. L'amicizia non chiede nulla, chiede soltanto leggerezza. Questa mattina vi parlerò dell'ultima mia ossessione, la disciplina del sollievo nel sollevare donne. Mi piace sollevare le donne. Non tutte in assoluto, non sempre. Non necessariamente quelle che mi sono amiche, familiari, congiunte. Anzi, nella maggior parte dei casi, rappresenta un'eccezione che mi capiti di sollevare chi già conosco. Sollevo piuttosto chi ho visto per la prima volta da pochi minuti, che probabilmente non vedrò mai più. Non attribuisco al gesto nessuna valenza erotica, nemmeno desiderio di promiscuità, contatto fisico, tentativo di avance. Il sollevamento della femmina potrei definirlo quasi una pratica ascetica, o più semplicemente un'improvvisa, dirompente e gioiosa uscita dal mondo. Voi direte che follia è questa, sollevare donne. Beh, pensate al principio profondo che si nasconde dietro la pratica di sollevare donne. Dare sollievo a una donna, allo stesso tempo sollevarla, elevarla, in un momento in cui sembra che ogni circostanza storica, ogni circostanza percepibile attraverso i mezzi di informazione, attraverso le cronache, attraverso gli strumenti di intrattenimento, fanno altro che abbassare la donna a un rango quasi subumano. Sollevare può avvenire in una duplice accezione. Sollevare nel senso di elevare, nel senso di astrarre, nel senso di aiutare a sollevarsi da quelle che sono le cure, le ambasce quotidiane, ma sollevare nel senso che lo intendo io è proprio nel senso fisico, prenderla sulle spalle e tirarla su. La sollevazione della donna è paradossalmente eseguita da chi nulla abbia di quella rapace vigoria ferina che ci si aspetterebbe da un sollevatore. Io stesso sono piuttosto gracile, porto gli occhiali e ho la tipica aria da professorino. Insomma, nulla indurrebbe a ritenermi adatto alla sollevazione fisica. Mi sono accorto di poterlo fare comunque con grande facilità. La forza muscolare non è necessaria al sollievo femminile. Anzi, ritengo che se lo facesse un atleta, il sollevare rientrerebbe in un'attività aginnica e non provocherebbe quell'effetto di temporanea frattura nel quotidiano. Dopo i primi esperimenti ho iniziato la ricerca del giusto punto di equilibrio. Tutta la disciplina fonda la sua efficacia nel far sì che il baricentro della donna appoggi sull'incavo della clavicola della spalla destra del sollevatore, che dopo l'elevazione può fare qualche passo o compiere un giro lento su se stesso e quindi, delicatamente, posarla a terra. 800 24 0024. Quali sono le prime impressioni che avete ricevuto pensando al fatto che qualcuno per strada che non conoscete vi guardi e vi dica posso sollevarla? E voi cosa fareste a questo punto? Vi fareste sollevare, fareste prendere in braccio, fareste prendere sulla spalla delicatamente, senza nessun contatto fisico, senza nessuno strusciamento. Chi invita una donna a ballare in realtà si vuole strusciare quella donna. E chi balla stretto, avvinto nel tango, che è una disciplina meravigliosa, comunque ha un contatto fisico molto emozionante, molto carnale. È indubbio, anche se esiste una sorta di avallo esteriore, di convenzione sociale, che si balla per il piacere di ballare, si balla perché è bello il ballo, si balla perché è divertente, si balla perché piace la musica, ma si balla soprattutto per tenersi attaccato a un'altra donna, per strusciare un'altra donna contro di sé. Nulla che ci sia di male assolutamente, ma per avere un contatto fisico. Beh, questo contatto fisico, che è una sorta di anticipazione a un contatto più profondo, è socialmente accettato. Chiunque portare la moglie a ballare ti invita, la moglie, la fidanzata, l'amica, o portare viceversa, andare a ballare con il proprio amico, compagno, ragazzo, fidanzato, coniuge, via dicendo, e capita di scambiarsi le coppie durante il ballo. È qualcosa di molto emozionante, di molto stretto, ma socialmente accettabile. La sollevazione, come la intendo io, è un gesto improvviso, è un gesto pura irruzione avanguardistica. Non c'è nessun tipo di strusciamento, di contatto, non è un provarci con una persona, non è tentare un approccio fisico, è semplicemente dare un istante all'ebbrezza della sollevazione, di prenderla sulle spalle, sollevarla, di farle fare un giro e rimetterla a terra. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Lei è un sollevatore di donne? Guarda, quando ho sentito il tema di oggi mi è venuto un brivido, perché 43 anni fa circa era una festa e c'era una bellissima ragazza per terra. Io l'ho sollevata senza dirle nulla, l'ho portata via giù per uno scalone e l'ho depositata a terra, l'ho detto: dove vuoi andare? Io mi chiamo Andrea, lei si è presentata e lì ci siamo conosciuti e oggi siamo ancora assieme, mia moglie. 43 anni fa. Allora lei mi aiuti, Andrea, perché questa mattina io sto correndo un grosso rischio, un grosso azzardo, perché provo a raccontare qualcosa che è un'esperienza personale e cercare dei punti in comune con esperienze vissute anche da altri. Lei mi sta aiutando. Il gesto che ha sorpreso quella donna bellissima allora e grazie al quale oggi siete marito e moglie da 40 anni è qualcosa che usciva dai canoni di tutti le normali ritualità di approccio, di corteggiamento, di fidanzamento agli esseri umani, perché prendere una persona sulle spalle è come prendere qualcosa che in quel momento non ha nessun'altra possibilità di sollevarsi, di uscire da una condizione di difficoltà o di oppressione. Assolutamente, poi era una cosa, primo non l'avevo mai fatto e secondo era anche una cosa tecnicamente difficile, perché mia moglie non è piccola e quindi aveva anche una massa, pur essendo magra eccetera, che era importante, ma io ho trovato un'energia e l'ho proprio sollevata con grande facilità. Oggi rimarrei bloccato da qualche ernia, però l'ho sollevata molto bene e ho fatto anche uno scalone in questa casa, una bella casa patrizia, con delle scale ampie, però l'ho portata giù per un piano di scale. Quindi il primo punto sul quale concordo perfettamente, poi via via che vi racconterò la mia teoria della disciplina del sollievo, del sollevar donne, che il peso è indifferente. Ho sollevato parecchie persone in quest'ultima settimana perché ho cominciato a fare pratica, vado per strada, chiedo alle donne di essere sollevate, quelle che accettano le sollevo, le fotografo. Infatti chi segue il profilo Facebook e le attività online sa che da settimane si sta svolgendo questo tipo di idea, si sta diffondendo questa idea, ma c'è un principio profondo, c'è la necessità di ristabilire una sorta di patto virtuoso fra uomini e donne, e la sollevazione non è detto che sia una delle forme. Sollevazione è sempre stata intesa come qualcosa di rivoluzionario, di dirompente, di distruttore dell'ordine costituito, ma in questo caso forse qualcosa di più leggero. Elisa. Buongiorno. Io non ho sentito purtroppo gli ultimi istanti della trasmissione, però ecco, volevo portare la mia esperienza. Di sollevata. Come? Di sollevata, di donna sollevata. No, mio marito è un grandissimo sollevatore di donne, però non a livello fisico, forse anche, soprattutto morale, spirituale. In tutti, cioè lui, se c'è una persona che ha un problema, donna separata, soprattutto piena di problemi, come tutte le donne separate, ecco, di solito l'uomo rifugge, gran codardo, no? Come sempre, fugge davanti a questi problemi. No, mio marito ci sguazza, si inebria, si bagna, si rigenera. Più sono, problematiche, più hanno problemi, più danno pensieri, più lui si ritrova in questa situazione. È un grandissimo sollevatore del morale, della situazione sentimentale, spirituale. Quindi però suo marito ha delle tecniche, soltanto tecniche verbali di sollevazione. Qua parliamo di sollevazione fisica. Ha una tecnica, una dialettica incredibile, quasi come la sua. Non le prende mai sulle spalle. Questo io non lo so, non sono presente nei loro incontri, perché sono tutte donne che io non conosco. Assolutamente. Ma questa è un'attività, diciamo, un'attività professionale, suo marito ha uno studio di sollevazione donne? Il suo studio, il suo cuore, la sua verbosità, la sua verbalità. E mentre lui solleva le altre donne, lei cosa fa? Io sono altrove, io non ci sono mai, io sono sempre occupata a fare altro, perché lui è una persona che sa, con la sua dialettica risolve tanti problemi. Vabbè, ha risolto anche il problema principale di far star tranquilla sua moglie, quindi mi sembra un uomo senz'altro. Lui risolve i problemi altrui, però in casa ne ha creati un sacco, tipo? Chiaramente, come lei puoi immaginare. Sì, la vedo molto allegra, quindi non l'immagino. Se me lo dice, magari ci posso riflettere. Insomma, fa le cose, a un certo punto vanno prese anche un pochino di sguincio, no? Dopo arrivi a un punto che guardi, sorridi, dici: otto, guarda, poverino, sta sollevando l'ennesima signora. Io magari mi faccio sollevare da altri. Lei che dice? Ecco, adesso a sua volta, allora, mi parli della sua esperienza. Logico, dottor Nicoletti, logico. Mi parli della sua esperienza di sollevata. Adesso guardi, non posso, perché mio marito mi sta ascoltando in questo preciso istante, per cui sa, sono cose che... Però non dirle molte volte dà molto più sollievo che dirle, e lascia intendere, capire, immaginare molto di più di quello che lei potrebbe dirci. Nell'atto del sollevare c'è tensione fino a che non arrivo al punto di massimo sollievo. Spesso in fase di elevazione può capitare di aver sbagliato la presa e ci si può fare male, anche seriamente, a livello muscolare o articolare. Senza contare che un sollevamento abortito procura un profondo senso di sconfitta e un vuoto emotivo incolmabile. Quando il sollevamento riesce fluido e fulminante, come se il peso della donna fosse annullato, la corrispondenza tra sollevare, essere sollevata e sollievo è perfetta. 800 24 00 24. Avete pratica della sollevazione fisica di donne? Dico di donne perché lo vedo dal mio punto di vista. Potrebbe esserci altresì una tecnica analoga in cui donne sollevano gli uomini. Ho guardato, ho visto che in internet esiste qualcosa del genere. Esiste una tecnica americana, lift and carry si chiama, ma mi sembra più una pratica sadomaso, in cui ci sono delle signore gigantesche, muscolose, prendono mettini, li sollevano e li sbattono per terra. Mi sembra tutt'altra cosa. La pratica del sollievo, nel sollevare donne, è la corrispondenza tra un atto fisico innocente, banale, istintivo, nulla di più istintuale e quasi primitivo, che prende una donna sulle spalle, ma che dovrebbe corrispondere a un profondo desiderio di prendersi una responsabilità sulle spalle. Ma siccome io in questi giorni ho la schiena un po' dolorante, lo ammetto, non avevo proprio il fisico per fare questo tipo di lavoro, mi rivolgo questa mattina a un'esperta di sollevazione che potrà darci senz'altro delle pratiche salutari, disposizioni per sollevare senza danni. Giulia Gussago, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Giulia Gussago è una danzatrice, nota danzatrice dell'Associazione Compagnia Liria di Brescia. Giulia Gussago, innanzitutto, nel sollevare una persona, esiste una corrispondenza fra sollevare un peso fisico ed elevare, aiutare a elevare questa persona anche da un punto di vista di serenità interiore? Tu che fai la danzatrice, quindi sai esattamente di cosa parlo. Senza ombra di dubbio, questa corrispondenza è assoluta e totale ed è molto importante nel momento in cui si è nell'atto di iniziare il contatto fisico, perché questa è ciò che precede il sollevamento vero e proprio, di creare una relazione che metta l'altra persona nella condizione di fiducia, cosa a cui prima accennavi. Questa è una cosa assolutamente fondamentale. Quindi la novità di questa cosa, rispetto a invitare una persona a ballare o a prendere sotto braccio per fare una passeggiata, è stabilire un istantaneo rapporto di fiducia, che mi sembra rarissimo oggi, avere possibilità di dare fiducia a una persona. Assolutamente, anche perché nel sollevamento le donne e anche gli uomini, per quanto rari che abbiano avuto questa esperienza, percepiscono immediatamente quello spostamento di cui tu parlavi per una questione della percezione di un rischio enorme, non si ha più la stabilità definita dal rapporto dei piedi con la terra, e questo rischio è assolutamente meraviglioso. Questo avviene anche fra danzatori, quando un danzatore alza un'altra persona, c'è questo momento nella tensione, nella concentrazione dell'operazione che sta facendo, che comunque ci si sente che parte via il terreno da sotto i piedi, quindi sei nelle mani dell'altra persona. Definitivamente sì, ed è una delle più belle sensazioni che si possono provare. Credo che sia uno di quei momenti così inebrianti tra i vari tipi di dinamica, sai, c'è un inebriamento del giro, per esempio, no? I giri vorticosi in cui si perde il senso della percezione dello spazio, anche il senso del salto è un'esperienza molto importante, ma quella del sollevamento, dal mio punto di vista, è una delle situazioni più attraenti in un rapporto di contatto. Allora, nella mia breve ma intensa esperienza di sollevatore di quest'ultime settimane, ho notato un fatto, vediamo se mi riesci a confermare o dare qualche altro elemento. Alcune persone fisicamente molto gracili possono essere pesantissime. Alcune persone, che ho sollevato una persona di oltre 90 kg e sembrava una piuma, e lo dico veramente, è un fisico che fa schifo, sembrano invece leggerissime. Quanto è la volontà di essere sollevato e quanto incide nel peso? Hai sentito quel signore prima? Ha sollevato la moglie, sì, con cui sta da 40 anni, che era un donnone, eppure l'ha presa su come una piuma. L'intenzione è fondamentale, l'intenzione della persona che deve essere sollevata, non solo quella di chi solleva, è fondamentale nella percezione che poi ha colui che solleva del peso della persona stessa, per cui è veramente, e se tu hai una persona che è una donna che resiste, sarà veramente molto difficile, oppure potrai avere dei seri problemi ricevuti dalla tua schiena la sera quando te ne andrai a riposare. Una persona che invece desidera fare questa esperienza ed è disponibile può essere veramente pesantissima da un punto di vista dei chili, come tu mi confermi, la signora di 90, e sollevarla senza nessun tipo di difficoltà. È proprio l'intenzione, il desiderio. C'è un segreto di tecnica proprio di sollevazione? Guarda, l'unica vera è relativa al respiro. Tra l'altro, mentre ascoltavo la tua prima presentazione, pensavo proprio al sospiro di sollievo, che secondo me è proprio il tipo di qualità del respiro che nel momento in cui ci si deve sollevare, entrambe le persone si devono, come dire, gettare in questo tipo di, in questa sensazione, in questo stato di abbandono, entrambe, anche chi solleva, un sospiro di sollievo. Grazie mille Giulia Gussago, noi siamo alla fine della prima parte di questa trasmissione, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni dalla borsa, ma il senso della partecipazione a questo programma mi sembra molto chiaro. 800 24 00 24, avete mai tirato un sospiro di sollievo quando qualcuno vi ha preso sulle spalle? Vorreste, desidereste, avreste mai avuto l'idea di prendere sulle spalle una persona per il solo senso di sollevarla in senso fisico ma anche in senso interiore? Melog 2.0. Un sollevamento in particolare è stato sicuramente per me il più irresistibile e audace. Avvenne la volta che incontrai una femmina colossale in un museo pieno di sacre reliquie. Il contesto mi aveva ispirato a un sollevamento che trovai poeticamente eccelso. Quando le manifestai la mia intenzione e le annunciai che stavo per sollevarla, mi rise in faccia perché pensava che scherzassi, vedendomi in realtà come ometto inerme di fronte a lei, fantastica gigantessa da regno delle favole. Invece la presi su come fosse una piuma, come Pollicino avrebbe potuto prendere in braccio per gratitudine l'orchessa, la donna dalla pietà smisurata come la sua mole, che per lui arrivò a ingannare il consorte orco famelico. La sollevai così, senza sforzo, e senza nemmeno accorgermi dei 90 kg che lei mi dichiarò, con sublime civetteria, mentre già svolazzava altissima. Fu la più intensa delle mie sollevazioni. Quando la posai mi parve per un attimo di poter volare. Quella sera ebbi qualche problema alla schiena, mi fu diagnosticata una leggera compressione alle vertebre, ma il disagio durò poco. Ho 800 24 00 24, stiamo parlando della disciplina del sollevo, di sollevare donne, qualcosa che esiste nell'area, tutti conoscono, tutti hanno praticato, tutti vorrebbero praticare, ma ancora non è emerso come esercizio codificato di possibilità di incontro, di possibilità di gratificazione personale. Per un omettino alzare una donna grande è una grande soddisfazione, ci si sente forti nel momento in cui la forza fisica viene considerata quasi un disvalore, e tu sei intelligente, tu sei colto, tu parli bene, no. Riesco a prendere sulle spalle una persona, sollevarla e farla girare. Altresì per le donne potrebbe essere una maniera per avere quella sicurezza, come diceva la maestra di danza nella prima parte, e di avere qualcuno che si prende una responsabilità, in un momento di totale deresponsabilizzazione, in cui gli uomini sono furtissimi, sono cazzutissimi, sono spietatissimi, ma in realtà non si prendono mai sulle spalle nessuna soddisfazione. Vi leggo nessuna responsabilità. Vi leggo qualche messaggio arrivato su Facebook. Adriano mi dice: è interessante come virtuosismi del sollevamento muliebre trovino corrispondenza anche nella grande arte figurativa. Plutone e Proserpina del Bernini, il ratto e le Sabine del Gian Bologna, tutti lì a immortalare fanciulle che grazie al telamone di turno sfidano la forza di gravità. Poi alcune signore chiamano, vediamo un po', ecco. Giulia mi dice: questo è il gioco che facevo da bambina con un mio piccolo amico, avevo 5 anni e lui 7, mi sollevava per farmi guardare il mondo dall'alto, per farmi vedere come l'avrei visto quando sarei stata più grande, me ne sono ricordata soltanto ora. Poi Maria Lucia: ci sono giorni che seguo sulle tue pagine questa inclinazione al sollevamento femminile, ma sto pensando che effetto farebbe su di me, che mi è sempre stato insegnato e inculcato da far sempre da sola, e l'essere sollevata implicherebbe il lasciarsi andare, che è veramente difficile per me. Francesca, buongiorno. Buongiorno Gianluca. È una... Allora, io ho 44 anni, ho due bambini piccoli, uno di 2 anni e mezzo e uno di 5, e per tutti li sollevo, li faccio proprio volare, li tiro su in alto, e loro ridono da morire. E non pesano, nel senso che hanno un peso specifico, ma non pesano. E allora mi è venuto in mente che anche io vorrei essere proprio sollevata e che qualcuno mi facesse giocare. Questo è infatti l'esempio più calzante, mi era sfuggito. Quando noi abbiamo un bambino, la cosa più divertente è sollevarlo, vedere l'euforia, ride, è impazzito, si sente, vede il mondo dall'alto, ma è facile, un bambino prenderlo sulle spalle è anche divertente, giocoso, implica una grande responsabilità. Un'amica mia mi disse che mai sarebbe stata sollevata, non voleva essere sollevata, perché il problema della sua vita è che suo padre da piccolo l'ha fatta cadere una volta, l'ha presa in braccio e l'ha fatta cadere, da allora ha una sorta di senso di sfiducia profondo verso tutti gli uomini, teme che un uomo prendendola in braccio, come fece suo padre, potrebbe farla cadere. Però mi confermi, Francesca, che in realtà... No, io vorrei proprio essere sollevata, cioè se qualcuno mi tirasse in aria e mi facesse ridere, non a caso mi è venuto anche in mente subito dopo che... Pronto? Talmente l'euforia di essere sollevata che è tracollata. Se la riprendiamo, Francesca, la recuperiamo, sentiamo cosa voleva dirci alla fine, perché finalmente qualcuna che rompe il muro dell'omertà, una donna che ammette l'euforia e l'ebbrezza di essere sollevata. Sentiamo Claudio. Claudio, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Chi sollevavi? Io sollevavo mia nonna. Ho iniziato circa 30 anni fa, per scherzo, a sollevarla, e questa cosa qua in realtà inizialmente la faceva sentire un po' a disagio e poi esplodeva in una risata fragorosa. Come la prendevi su? Qual era la tecnica? Così vediamo, ci confrontiamo anche sulla tecnica. Ecco, diversamente da te, perché non la sollevavo sulla spalla ma la cingevo alla vite e la sollevavo da dietro. L'importante era staccare i piedi da terra. Come la tabaccaia di Fellini, per dire. Sì, più o meno, esatto. È un'altra presa, io prendo la presa sulla spalla perché... è la più asettica, quella che implica meno contatto fisico, ecco, la prendi, certo, sull'osso della spalla e quindi non senti nulla se non il peso. Certo, la nonna era la nonna, quindi mi potevo permettere, certo, anche una contiguità, chiaro, insomma, diversa. Comunque esplodeva in una risata fragorosa, e questo tra l'altro era una cosa che io praticavo molto quando si creavano tensioni familiari. Io mi alzavo e minacciavo mia nonna di sollevarla, e poi la sollevavo e tutti si mettevano a ridere, e questo provocava così una rottura della tensione, grande ilarità. Sì, in effetti è vero, quando uno ha un contrasto forte, fare un gesto irrazionale è completamente straniante rispetto al contesto. Mettiamo che uno litiga con una donna, con la moglie, la fidanzata, dicendo, prenderla improvvisamente in braccio, sulla spalla, rompe la catena inesauribile del contrasto. Questo aiuta molto. Fabio. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Mi può scusare? Che succede? Mi passi come mamma, per favore. Ah. Mi scusi un attimo. Sì, che stava sollevando qualcuno. No. Ho ho il telefono, ecco, adesso non posso. Può parlare, sono fermato un attimo. Ah, stava guidando, stava. Sì, sì, sì. Allora, si attento. Niente, io voglio raccontare la mia esperienza perché la mia fidanzata, qui abbiamo un rapporto un po' difficile così, però anche bello, insomma, ha un po' una compulsione, diciamo, un vizio, si può dire, però un po' compulsivo, perché a lei piace bere. Allora... Beh, è alcolista o... No, no, no, guardi... Le piace stare allegra, diciamo? Le piace bere, poi non è che beve tantissimo. Quando beve un po' di più si ubriaca e poi si lascia un po' andare. Vabbè, no? se non è proprio un vizio nefasto, è una cosa divertente, una donna che ami bere. Ma insomma... Beh, no, può essere anche che, insomma... stia esagerando, ha capito? Vabbè, lei sa la giusta misura, io dico, una cosa è stare allegri, bersi un bicchiere in compagnia, essere un po' euforici, una cosa è tutte le sere farsi un litro di vino. Sì, comunque quella sera, che era un sabato sera, era un po' addormentata in macchina, non sono riuscito a sollevarla dal sedile della macchina per portarla su in camera. E alla fine mi è scivolato un paio di volte, degli amici che stavano uscendo perché erano appena le 10:30 me l'hanno caricato sulle spalle e l'ho portato su. Diciamo che è un po' diverso da quello che stiamo dicendo noi, non è un gesto partecipato di uscita dal mondo, di euforia. Qui era una necessaria bisogna di prendere la fidanzata ciucca dentro la macchina, caricarsela sulle spalle e portarla a letto, qualcosa del genere. Sì, era una cosa un po' più semplice, però lei si abbandona e io devo prenderla e sollevarla anche. Cioè, quindi se c'è un peso eccessivo, lei pensa che non ce la fa, ma in realtà quando l'arte della sollevazione è reciprocamente accettata diventa una cosa facilissima. Le parole chiave sono stupore, innalzamento, corpo, leggerezza, sorriso femminile, forza e vertigine. Non è immediato sistematizzare questi concetti in un'azione del tutto irrazionale come il sollevamento delle donne. Il principio ispiratore è al momento l'esigenza di compiere un atto necessario a ristabilire un corretto protocollo di comunicazione tra uomini e donne. Per farlo è necessario compiere un gesto arcaico e nella prassi sconveniente. Il peso non è il limite alla sollevazione, lo è piuttosto la partecipazione emotiva. Dopo quella prima volta sono arrivato a sfiorare i 90 kg in vari casi. Anzi, più la donna si sente concretamente appesantita, più l'elevazione la franca anche da un anatema estetico. Il caso peggiore è stato di una donna costretta dal coniuge alla sollevazione, ma solamente perché lui potesse fotografarla. Porto ancora in un dolore dorsale le conseguenze di quell'elevazione coatta. Maestro Giorgio Ciampi, buongiorno. Giorgio Ciampi è maestro emerito di judo, è cintura bianca e rossa 7° dan, pratica il judo dal 55, ex poliziotto, docente di difesa personale all'Accademia della Polizia di Stato, preparatore di molti campioni italiani e europei, è uno dei tecnici più accreditati a livello nazionale che ancora oggi da fare per diffondere l'arte del judo attivamente, sale sul tatami assieme ai suoi allievi, sia bambini che adulti. Maestro Giorgio Ciampi, noi stiamo parlando di sollevare persone consenzienti, ma come ho detto io, nel momento in cui una persona fa resistenza diventa impossibile sollevarla. Nell'arte del judo, la sollevazione, sollevare un'altra persona, risponde alle tecniche ben precise? Io credo di sì, sulla forza. E guardi, la sentiamo malissimo, sta parlando con un viva voce, se no rifacciamo la telefonata. Ecco, adesso... Pronto? Ecco, adesso sentiamo un po' meglio, sì. Chiedo scusa. Ecco. Dicevo che il judo proprio si basa su questo principio della flessibilità, della cedevolezza, sfruttando l'energia e la forza dell'avversario. Questo quando c'è una riottosità, cioè c'è un contesto, un contrasto, allora c'è un'aggressione, un principio di aggressione, si può sollevare questo soggetto e naturalmente disporre per una caduta violenta, meno violenta, accompagnata e quant'altro. A noi interessa la prima parte, la sollevazione, noi non vogliamo buttare per terra nessuno. Ad esempio nel kata guruma, che è una forma di judo, esiste una maniera per sollevare una persona cercando di fare meno sforzo possibile? Certo, nel catacroma specifico la parte predominante è proprio chi non vuole farsi sollevare, o perché è un contrasto, oppure perché ha paura. Allora colui che cerca di sollevare sulle spalle una persona deve prima avere una posizione con le gambe tipica di sollevamento pesi, dove l'equilibrio è indispensabile, e andare col collo, con una spalla al di sotto della cintura, che è il baricentro. Se questo avviene correttamente, è sufficiente uno piccolo spostamento di pochissimi centimetri che il soggetto che deve essere sollevato va su da solo, senza impiegare la propria energia. Inconsapevolmente la tecnica che usavo io nella mia sollevazione fantastica, diciamo prendere sulla spalla destra la persona aiutandosi con la mano e sollevarla senza sforzo. No, c'è un punto precisissimo, no? Per ovviamente chi lo pratica oppure lo fa per la prima volta, deve ricordarsi di andare leggermente al di sotto del centro per poter avere poi, no, questo movimento sopra le spalle, questo appoggiarsi dell'altra persona sopra le spalle senza alcuno sforzo. Qui abbiamo capito che in realtà esiste una tecnica precisa che andrebbe messa a punto, se volete che la sollevarte, la sollevazione, la disciplina della sollevazione non sia deleteria per le vostre spalle, per la vostra colonna vertebrale, e soprattutto trasferire quel senso di sicurezza necessario perché il gioco sia accettato e divertente. Bisognerebbe che vi ripassaste quello che è il kata guruma, che è una presa di judo in cui naturalmente bisogna tener conto che non occorre poi scaraventare la terra, ma occorre posarla con grande leggerezza. Melog 2.0. L'esercizio del sollevare svela donne capaci di ripagare con pratica di leggerezza chi dimostri la capacità di accollarsi la responsabilità di aver cura e passione del loro esistere. Sono figure femminili stanche di uomini contorti e problematici, come della brutalità del maschio vincente e dominatore, tutto carriera e lettino abbronzante. Capita che molti travisino il gesto, pensandolo come vessatorio e mirato a ristabilire un rapporto di sudditanza fisica della donna. Chi dica le alza come fossero sacchi di patate è in errore. Il sollevatore non deve affermare nessuna supremazia. È solo alla ricerca di profondi e sconvolgenti momenti estatici nel contatto fugace con femmine straordinarie, sepolte nel quotidiano. Sono quelle semplici donne che possono trovarsi per strada, in metropolitana, nei luoghi di lavoro, in fila agli sportelli, tartassate dagli impegni, sbatacchiate dagli affetti, appesantite dal senso del dovere. Paola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei era molto appesantita quando 5 anni fa fu sollevata. Guardi, è calza a pennello questa descrizione, perché ero appesantita, sono una donna divorziata, ho problemi, lavoro, i figli, una situazione di quelle soffocanti, con uomini ancora più soffocanti, problematici, ma soprattutto uomini che non sapevano aiutarti, darti una mano, esserci. E come l'hanno aiutata? Allora, io ho accettato per la seconda volta di uscire con questa persona che io avevo conosciuto al bar, si figuri, e mi invita a fare una passeggiata in centro a Roma. E per l'occasione io, come tutte le donne ai primi incontri, indosso i tacchi, cosa che non si dovrebbe mai fare. A Roma assolutamente impossibile. Ah, impossibile. Allora, in questo ciotolino di strada ai Monti, pieno di sappietrini, io mi fermo e dico, non ce la faccio a camminare, prendiamo un taxi. E allora questa persona mi dice, Paola, ti dispiace divaricare le gambe? Beh, io, ha capito? Cioè, già sì, lo conoscevo poco, quindi mi ha fatto una domanda che mi ha lasciato di perplessa. Stucco. No, perplessa, poi comunque la strada era piena di gente, era una cos'era autunno, quindi c'era gente. Io divarico le gambe e quest'uomo, che era più grande di me, perché aveva 50 anni, io 45, mi solleva come si fa con i bambini. Ah, come si a Cavaceci l'ha presa però. Cavaceci. Eh beh, è un po' meno neutro, la mia sollevazione è una sollevazione, potrebbe fare un frate Certosino, il Cavaceci lo vedo già un pochino più intrigante, però se la cosa è andata funziona. Però in quel momento di intrigante, non so, comunque... Adesso non so, la finalità sarà l'intrigo, ma le assicuro che nel sentirmi sollevata io sono ritornata indietro a una fase proprio infantile di divertimento, di gioco, di... ma soprattutto la cosa di cui io mi fidavo è che la persona che in quel momento mi stava portando a Cavaceci con la gente che ci guardava, perché non eravamo ovviamente due ragazzini, no? Uh-huh. È stato un momento così ludico, ma così bello, che mi sono detta ma non ci vorrebbe molto, no? E quindi ha ceduto a quell'uomo? Io ho ceduto, sì. Infatti, beh, poi mi sembra impossibile non cedere in queste situazioni. No, ma poi un po' qualche anno dopo mi ha detto: quando ti sei innamorata di me? E io gli ho detto: quando mi hai sollevata. Quindi abbiamo stabilito con Paola un rapporto diretto fra la sollevazione e una sorta di uscita dal mondo, di momento culminante di sollevazione in senso sia spirituale che in senso pratico. Ma chi può darci forse qualche indicazione in più su quanto il sollevare un altro essere umano rappresenti anche un punto di arrivo artistico? È Laura Comi. Laura Comi, buongiorno. Buongiorno. Laura Comi è prima ballerina e toile del Teatro dell'Opera di Roma, quindi nessuno meglio di Laura Comi ci potrà chiosare questa mattina la nostra faticosa ricerca dell'arte di sollevare. Laura, quando ti solleva un ballerino, in quel momento, a parte la tensione della danza e di quello che stai facendo, c'è qualcosa in più rispetto a quando si balla con i piedi per terra? E guarda, diciamo che dobbiamo suddividere questa fase in un inizio, perché quando si provano dei lift, se sono molto semplici si fanno subito, altrimenti bisogna raffinare la tecnica per riuscire a farli, quindi si fanno molte prove per riuscire poi a fare, diciamo, una presa in modo molto disinvolto e che quindi poi possa essere durante la sequenza, ecco, di un passo a due, e possa essere molto fluido, che dia l'idea di molta naturalezza, anche se poi si tratta di cose molto innaturali. Perché nel tirare su una ballerina comunque bisogna rispettare dei passaggi tecnici tipici proprio della danza classica accademica e contemporaneamente esprimere, e quindi bisogna manifestare la parte artistica che riguarda appunto il personaggio che in quel momento si sta interpretando. Infatti tu stai parlando di un sollevamento legato a una pratica di raffinata, profonda e difficilissima arte della danza. Il sollevamento che passiamo noi è una banalissima metafora quotidiana di questo gesto che rappresenta, è come se la tua fosse una raffinatissima liturgia e la nostra fosse semplicemente, non so, un semplice pensiero, ecco, è molto diverso. Sì, molto diverso, perché diciamo i lift ovviamente facendosi in due avvengono durante un pas de deux e quindi è tutto, diciamo, finalizzato a quello che si vuole interpretare. Non so, per esempio nel passo a due di Romeo e Giulietta, faccio un esempio, nel primo passo a due, che è il loro incontro, quindi questo innamoramento travolgente, ci sono questi lift proprio di per manifestare questa felicità e queste sensazioni primarie che lei, insomma, un adolescente per la prima volta prova, e però tutto ovviamente alle spalle ci sono ore e ore e ore di prova, perché poi quando si arriva sul palcoscenico questi lift devono veramente sembrare di una naturalezza, di una fluidità che attraverso loro si trasmette l'emozione, il sentimento che si è chiamati ad esprimere in quel momento. Sì, però Laura Comi ci ha detto una cosa bellissima per chiudere questa trasmissione, che attraverso una disciplina, una pratica, un'arte, una ricercatezza di perfezione formale, in realtà il momento sublime del rapporto fra Romeo e Giulietta, che tolte tutte le melenzaggini possibili e immaginabili, è ancora la figura simbolica più legata al nostro immaginario amoroso, viene rappresentato attraverso una sollevazione. Romeo solleva Giulietta per dimostrare in quel momento quanto lui vorrebbe tenerla alta, sollevarla appunto dalle mestizie e dalle tristezze del mondo. E quindi nella nostra modestissima pratica del sollievo di sollevar donne, forse questa mattina abbiamo dato qualche idea e qualche malevolo suggerimento. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.